Lo spettacolo più longevo del West End londinese, uno dei musical più popolari degli ultimi 20 anni, è Les Misérables, che dopo le 8 nomination agli Oscar arriva nelle sale italiane. Riviviamo le gesta di Jean Valjean e Javert con un cast stellare che va da Hugh Jackman a Russell Crowe, da Anne Hathaway a Sacha Baron Cohen. L'onda distruttrice dello tsunami che nel dicembre 2004 sconvolse il sud-est asiatico si infrange sul grande schermo. The Impossible racconta la storia vera di una famiglia dispersa dal maremoto e dei suoi sforzi sovrumani per ritrovarsi, con Ewan McGregor e Naomi Watts. Schwarzy è tornato. Dopo la lunga esperienza politica, Arnold Schwarzenegger è il protagonista di The Last Stand, l'ultima sfida, nei panni dello sceriffo di una sonnolenta cittadina al confine tra Arizona e Messico. Commedia d'azione riuscita e divertente, tra ironia e nostalgia. E un'altra icona dei duri di Hollywood, Bruce Willis, è protagonista di Looper, un salto nel futuro prossimo, 2044, quando il viaggio nel tempo sarà realtà, ma non legge. Ma il crimine in tema ha altre idee. Nel cast anche Emily Blunt e Joseph Gordon-Levitt.